Venerdì 24 settembre, Gallery 16 ospita la presentazione del libro Rock Poster e la mostra Rock and Wall. Al telefono c'è Larry, ciao! Ciao, buongiorno a tutti! Il libro racconta l'evoluzione del manifesto rock da semplice veicolo promozionale di concerti e festival ad autentico oggetto d'arte. Come mai questa scelta? Partendo da un pelo prima, Gallery 16 nella nostra testa è un luogo in cui si fa aggregazione e cultura attorno alla musica, per cui abbiamo sempre fatto mostre di fotografie e esposizioni di arte collegate in qualche modo alla musica. Il manifesto dei concerti rock è negli anni diventato una sorta di icona, per cui, a parte il periodo psichedelico, quello dove proprio gli artisti disegnavano, anche vedere il logo classico del gruppo mitico, per dire il logo dei Rolling Stones, per fare l'esempio più facile, ti riporta subito con la mente a un periodo. Insomma, è una cosa che a noi nostalgici della musica piace parecchio. Rock and Wall invece è una mostra mercato di manifesti e locandine di eventi rock da collezionismo. Sarà quindi possibile acquistare oggetti d'arte? Allora, alcuni di quei poster sono proprio in vendita e sono dei pezzoni originali risalenti all'epoca. Per dirne uno, c'è un manifesto bellissimo dei Violent Femmes quando suonarono al Video di Cesena nell'85, 70%, quindi proprio in una parete. È spettacolare, infatti se non andrà venduto mi sa che me lo porto via io. ci sta. Sì. E come dicevi, Gallery 16 è uno spazio molto particolare che è dedicato all'arte in tutte le sue forme. Come è nata l'idea di creare un ambiente così poliedrico? Allora, intanto perché siamo tutti appassionati di musica, fra chi è musicista, fra chi ascolta, eccetera, eccetera, volevamo tentare di appunto fare un luogo per cui la musica tornasse a essere aggregante, perché adesso con tutti i vari supporti tecnologici ascoltiamo la nostra musica in cuffia, per dire, purtroppo la radio non è più l'unico modo di ascoltare musica, no? E soprattutto fanno discorsi di playlist, eccetera eccetera, oppure anche questo ritorno del vinile, che insomma sì, i numeri sono poi piccolini, per cui un posto dove presentare dei libri possibilmente collegati alla musica, fare delle mostre, delle esposizioni di fotografie o di cose legate alla musica, fare dei DJ set belli. E tra l'altro sabato inauguriamo la prima serata in collaborazione con Radio Fujiko, fare dei piccoli live, tutto questo con un cocktail bar, per cui si sta bene insieme, ecco, sì, questa è la cosa. Certo. È necessario prenotarsi per l'evento? Serve il Green Pass per accedere? Allora, noi abbiamo, finché il tempo ci aiuta, abbiamo il Dehors, per cui chi non ha il Green Pass può stare fuori. Sì. Dentro noi rispettiamo le regole che tutti devono rispettare. Certo. Tutto qua. Allora, io ti ringrazio per questa intervista e ci vediamo venerdì 24. Grazie mille. Grazie.